più perché io bella ti vengo a cercare. Quando esco bella io ti vengo a cercare. Quando esco bella da sto posto qua, non ti preoccupare bella, io ti vengo a cercar. Quando esco bella da sto posto qua, quando esco bella io ti vengo a cercar. Quando esco bella da sto posto qua, non ti preoccupare bella, io ti vengo a cercar. Quando esco bella da sto posto qua, no no no bella, non piangere, non piangere più perché io bella.